Perché? Ma perché questa notte? Alle ore più lunghe che non passano mai. Ma perché ogni minuto dura un'eternità? E non cambiano mai.